Dal Veneto alla Sicilia, un coro di ragazzi rompe sul web per raccontare un anno vissuto noiosamente tra lockdown e didattica a distanza. Continua l'attenzione per i giovani, hanno tra i 15 e i 18 anni e sono gli adolescenti in giallo. Intanto, perché la scelta di questo colore? Oggi si parla molto di colori, Stefano. Perché in giallo? È perché ormai è diventata, la nostra è diventata una vita a colori. Con diverse sfumature. Esatto. Il problema è proprio quello, che ormai i colori, anziché essere associati alla, a un gioioso arcobaleno, sono associati a qualcosa di molto più pesante che incide nelle nostre vite. Infatti, per cui queste adolescenze in giallo in realtà saranno la prima tappa di un percorso che faremo in alcune, diciamo così, fragilità rispetto appunto alla situazione in cui viviamo, per cui iniziamo con queste adolescenze in giallo, ma poi continueremo con le anzianità in arancione, poi le migrazioni in rosso, per finire con le normalità in bianco, augurandoci che nel frattempo appunto saremo davvero arrivati a una normalità in bianco. Che poi il bianco è il colore che si ottiene se tutte le frequenze e i toni vanno insieme in maniera vorticosa. Hai mai provato con una girandola che contiene tutti i colori dell'iride e di più provare a girare vorticosamente? Ottieni il bianco. Bravissimo, bravissimo. È esattamente quello. E l'idea è appunto è stata quella di. Allora abbiamo iniziato, poi le tappe diciamo sono, è venuto dopo l'idea di allungare in altre tappe, ma l'idea è nata soprattutto dalla volontà di andare a, di dare voce un po' agli adolescenti, appunto. Certo. A questa fascia tra i 15 e i 18 anni che si è trovata, che tra l'altro è in un'età in cui è fondamentale la socializzazione, la fisicità, insomma, sì, è proprio delicatissima, e si sono trovati invece in una situazione di isolamento con la didattica a distanza, ma anche proprio con un isolamento sociale che può avere ripercussioni davvero molto pesanti. Noi non abbiamo voluto fare una classica inchiesta giornalistica, non abbiamo voluto fare un documentario, nulla di tutto ciò, e anzi non abbiamo neanche voluto fare uno spettacolo. In realtà chi vedrà stasera questa cosa non vedrà teatro. Ci sono piccolissime situazioni performative, ma sono fatte dai ragazzi stessi, perché non ci piace, diciamo. Non abbiamo voluto trasferire semplicemente il teatro in streaming, lo spettacolo dal vivo è dal vivo. Mi inchino, onore al merito, cioè veramente mi inchino davanti a tutto ciò e do importanza a chi porta avanti il concetto, ma non fa teatro. Esatto. E questo è esattamente in presenza, assolutamente. Però esatto. Adesso questa è stata la nostra idea. Esatto, e questa è la nostra idea, per cui facciamo comunque qualcosa che non è teatro, ma che contiene un'idea di incontro dal vivo, di performatività, diciamo così, ma è un'altra cosa, è appunto un'inchiesta poetica. Cosa succederà? Succederà che questi 9 ragazzi da varie parti d'Italia, ce ne sono 2 di Bologna, ma poi sono da Torino a Enna. Sì, ho letto, veramente eterogenei, sì, da Barletta, sì. Napoli, Roma, sì. Verona, sì, Verona, la provincia, sì. Che hanno i loro sogni, hanno la musica, che soffrono giustamente e purtroppo la solitudine e la distanza, che hanno scoperto l'informazione e la politica e gridano questo loro entusiasmo e voglia di vivere, purtroppo dall'algido schermo, e farne approfondimento, esatto. E conoscerli in questo modo, secondo me, è veramente un vantaggio per imparare per noi. Io quando faccio formazione alle ragazze più giovani ho questa grandissima fortuna nell'emittente, dico sempre che io imparo. Secondo me il buon divulgatore di esperienza e di contenuti per prima cosa deve mettersi a disposizione imparando dalle persone più giovani, e questo l'ho sempre sostenuto, e l'ascolto diventa totale. E anche perché ma i tempi guarda, stanno cambiando in fretta. Eh sì. No, no, ma infatti, ma tra l'altro è proprio la nostra impostazione. Cioè, noi non abbiamo dato dei testi da ripetere, non abbiamo detto cosa devono fare, abbiamo solo suggerito di ciascuno di loro di prendere un oggetto che ritengono come un oggetto simbolo, più o meno simbolo del loro lockdown, e di raccontarlo, chi brevemente, chi più a lungo, chi in maniera molto, diciamo, frontale davanti alla webcam, chi facendo dei veri e propri video, ciascuno lasciando completa autonomia, ma questo dopo molti incontri che abbiamo fatto con loro, naturalmente online, dopo molti incontri che abbiamo fatto con loro, parlando, approfondendo, conoscendoli, facendo venire fuori appunto le loro emozioni, e alla fine, ecco, ciascuno di loro restituirà un frammento di questa cosa in un'inchiesta poetica, ripeto, perché certo, non è che vogliamo bello dimostrare qualcosa, saranno dei piccoli flash che lasceranno allo spettatore, non so, uno spiraglio su queste adolescenze che sono davvero sorprendenti, ecco. Sì, anche ogni scusa se ti interrompo, no, perché poi faccio le mie riflessioni inopportune, chiaramente, che disturbano anche, però io ogni tanto ci penso, in quell'età, quello che sentivo dalla preadolescenza, anche solo il profumo del fiorire di un tiglio nella primavera porta a una sensazione, anzi micro sensazione, che poi nel percorso della crescita ti resta sempre e comunque e ti fa da colonna sonora, chiamiamola così, o colonna olfattiva, per dirla meglio, e ti rimane e ti chiarisce molti aspetti, non solo nell'aspetto romantico ma anche nel concreto. Se togli queste piccole cose, io ogni tanto me lo chiedo, e se i giovani non hanno queste piccole cose che possono essere oggetti, profumi, momenti, angoli particolari della città, oggetti, come giustamente hai detto, ognuno porta un oggetto al quale è stato particolarmente legato, perché è da queste piccole cose poi che ci si distacca allo stesso modo dal famoso online, che c'è il concreto, c'è il vero, c'è il contatto che può essere sia materiale ma nello stesso tempo anche sensitivo. Ho finito l'omelia, scusa Stefano. No, ma hai detto benissimo, assolutamente, è assolutamente così. E quello che abbiamo visto è che i ragazzi sono appunto in realtà sorprendenti, perfino in situazioni, chiaramente nessuno l'ha vissuta bene, però ciascuno ha trovato all'interno di questa situazione, di questo anno, delle ancore, ma anche alcuni anche delle possibilità di rilancio molto forte. Hanno riscoperto la solitudine, la riflessione. Certo, non è un come dire, non era auspicabile in questo modo. In questo modo, però, infatti. Esatto, per alcuni però è stato anche quello, e quindi avremo davvero un ventaglio molto ampio, molto diverso, molto diversificato. C'è una ragazza che durante il lockdown ha scoperto di essere una scrittrice, ha scritto un romanzo che le verrà pubblicato a 17 anni. Bene. Ci sono davvero, è successo, oppure un altro ha scoperto di avere il Covid mentre eravamo praticamente in diretta, mentre stavamo parlando, facendo i nostri colloqui. Ci sono racconti incredibili, però al di là del racconto è molto bella il modo in cui loro hanno deciso di mettersi così, a esporsi, parlare di sé, certo, esatto, di esporsi, esatto. E io sono convinto che abbiamo scoperto anche, nonostante, come abbiamo detto in apertura, una fragilità tra virgolette, c'è anche una grande forza, si è fortissimi a quell'età, sembra che veramente dei vulcani, delle forze inarrestabili. Noi siamo quasi più preoccupati per loro, giustamente, perché è anche una questione generazionale, però la risposta molte volte è sorprendente, secondo me. Sì, poi assolutamente sì. Per Adolescenti in Giallo, per sentire veramente questa proposta, questa inchiesta poetica, gli appuntamenti sono per questa sera, venerdì 5 marzo 2021, in diretta online con Teatri di Vita, dai diversi canali di divulgazione, dal sito www.teatridivita.it, sui canali social e Instagram sempre di Teatri di Vita.